oramai è mattina e cerchiamo un po' di noi, assetati come il cielo al Valentine mood. Io Jane la conoscevo, poi se ne andò, partì, nemmeno un po' di sole quel giorno, Valentine Moon, yeah. E lei aveva gli occhi e un cuore solo, non lo so. Aveva te, aveva me, aveva dentro quello che sogno e che non ho. Che cos'è questa vita? E come stiamo? Come sta? È bello, no, essere qui insieme, Valentine. Cerchiamo